se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna la mia non vigila. Aspetti, signorina, e ne dirò con due parole chi son e che fare e che faccio e come vivo. Vuole chi son, chi so, sono un poeta, che cosa faccio, scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, lasciamo la gran signore, arriva dimmi d'amore, per sogni aperti mere, e per castelli in aria. L'anima, oh, gioielli e due ladri gli occhi belli, venne trar con voi pur ora ed i miei sogni usati e i miei sogni miei. Tosto si dille cuor, e mai la furato non m'accora. Poi te va prego stanza, parlate voi.